Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sosso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, Alessandro Jacopini in redazione, Roberto Scaltrini in regia, siamo tornati a Milano dopo la gita a Bari. Pardo no, è perso nel sud, a Napoli, giusto? Sì. Stai a Napoli? Pronti per stasera, pronti per stasera, 5, carichi. Oltre che sul premio calcio, Napoli porta. Anche se Conte dice che tutto sommato per la Juventus la vita naturale alla Champions League, dunque sta coppetta vediamo. Comunque stavo pensando una cosa dopo aver visto le partite di Champions di ieri sera. Milan e Manchester United non sono in situazione poi così diversa all'apparenza. United settimo in classifica in Premier League, meno 18 dal Chelsea, fine ciclo, rifondazione, ricostruzione, allenatori più o meno contestati e criticati. Certo ci sono delle differenze fondamentali. Parte Van Persie, rete, Manchester United in vantaggio, controllo perfetto di Rooney, ancora Rooney, la mette in mezzo, Van Persie, rete, Van Persie, 2-0, parte Van Persie, rete, Van Persie, fa esplodere l'Old Trafford. Rete, Paolo Condò, via dalla Gazzetta dello Sport, ciao. Carlo, ciao Pier, buongiorno ciao a tutti. Come va? Abbiamo visto un bello spettacolo ieri sera, solo in TV, però sì. È stato un grande spettacolo. Bello. Un grande spettacolo, un grande Van Persie. Qualcuno dice, vabbè, Milan e United, due nobili decadute, due grandi in crisi. Beh, direi che qualche differenza fondamentale c'è, a cominciare dai gol di Van Persie, dal fatto che United va fuori. Però, Non voglio parlare poco di persone, però. Entro certi limiti, no? Paolo, che dici? No, lo stadio di Old Trafford, come ho detto anche oggi nella mia rubrica Gazza Caffè sul sito, è uno dei luoghi mitologici e magici del calcio. Però San Siro non sarebbe da meno se il Milan riuscisse a comunicare anche nel momento difficile la stessa passione e lo stesso senso di appartenenza che lo United comunica sempre. La grande differenza è questa. Questa è una chiave bellissima, è veramente una sottolineatura da fuori classe, posso dirlo, nel senso che poi alla fine tante volte esiste un confine, una distanza tra il risultato sportivo e il percepito. E ieri sera è stata grande lezione di sport prima ancora che di calcio, nel senso che con una squadra che sta facendo schifo, perché lo United quest'anno sta facendo schifo, che aveva perso 3-0 contro il Liverpool nell'ultima giornata, quindi come se il Milan avesse perso il derby 3-0 contro il Liverpool, tanto per fare un esempio, c'era lo stadio pieno, c'era quel tipo di passione, questa sicuramente è poi si partiva da 0-2, Pier, si partiva mezzi fuori o forse più di metà, no? E questo sicuramente ha influito e questa ripeto, una grande sottolineatura. Detto questo, poi magari il Milan con l'Olympiacos poteva anche pensare di passare il turno, non lo so, magari no. Però io faccio fatica a crederlo e a pensarlo, visto il Milan delle ultime uscite col Parma, vabbè, lascia stare l'Atletico Madrid, però secondo me io non me lo vedo il Milan che passa questo turno, neanche con tutta la fantasia del mondo. Torniamo tra poco sullo United, però prima volevo buttarvi un'altra idea, un'altra suggestione per capire cosa ne pensate. Non è facile parlare di notti magiche italiane in Europa League, dice Conte. Con un po' di fantasia, però, insomma, potremmo ripartire da qui. Agli stessi tifosi juventini, io sto già vedendo gli sms, tra poco sentiremo anche le voci, 800240024, non è piaciuta tantissimo questa uscita di Antonio Conte. Paolo? Ma lui ha detto una cosa giusta, cioè che l'habitat naturale della Juventus dovrebbe essere la Champions League. Quindi c'era in Champions League. Infatti. C'era, ne è uscita per sua colpa. E quindi ora in un certo senso la Juve deve espiare vincendo l'Europa League, approfittando anche dal fatto che la finale sarà nel suo nuovo e bellissimo stadio. E lo so anch'io che la Juventus dovrebbe... La Juventus secondo me rimane una delle 8 squadre più forti d'Europa. Cioè, per intenderci, siamo sempre Juventus, però Paolo, tra Juventus e Manchester United, Juventus e Manchester United, io mi prendo la Juventus anch'io. Come forza anch'io. In valore assoluto. Però il Manchester United Dortmund l'ha dimostrato. La Juve. Come? Anche il Dortmund. Sì, cioè, per me la Juve per parole appunto, poteva stare nelle prime otto, ovviamente come un outsider, cioè secondo me distante da, da sì. Paris Saint Germain, non nelle prime quattro, non nelle prime quattro, ma nelle prime otto come l'anno scorso, sì, certo, sono d'accordo. Sì, comunque siamo sempre nel campo delle astrazioni. Adesso certo. La Juventus è in Europa League, ha una finale in casa, ha una partita con molte suggestioni come quella con la Fiorentina e Conte che dice: ma ce l'abbiamo, sentiamo, così vi faccio sentire cosa ha detto Conte, inutile stare a fare dei virgolettati per radio, eccolo qui. Sinceramente non avverto tutta questa pressione sulla Juventus, anche perché ribadisco che il percorso della Juventus non deve essere in Europa League, deve essere in Champions League. Il nostro grosso rammarico, ribadisco un'altra volta, deve essere l'eliminazione in Turchia subita dal Galatasaray. Detto questo, adesso abbiamo iniziato questo percorso ed è giusto cercare di fare del nostro meglio. In teoria la Juventus, sempre in teoria e sempre in ipotesi, la Juventus non mi sembra nemmeno così distante da quel Chelsea che invece il Galatasaray aveva maltrattato. L'Europa League l'anno scorso l'ha vinta il Chelsea, che un anno prima aveva vinto la Champions, era stata per una settimana, era successa questa cosa credo inedita, che era la detentrice di tutte e due le coppe, sì. Quando non ha dovuto tecnicamente cedere poi a la Coppa dei Campioni al Bayern dopo la finale di Londra. E non mi piace il ragionamento di Conte, non mi piace, perché voglio pensare, voglio sperare che sia un modo per togliere un po' di pressione, in realtà è una partita che pressione ne mette, e allora se è stato questo, Conte è stato bravissimo nel fare questo ragionamento per provare ad abbassare la tensione, ma se invece lo pensa, secondo me è un'occasione persa. La Juve ha vinto il campionato, di fatto. Conte si sta preparando a vincere il terzo scudetto consecutivo. Per la Juve e soprattutto per lui c'è bisogno di una grande Europa League. Certamente. C'è bisogno di una Europa League che gli dia un'altra dimensione, la forza di questa squadra, e che dia anche a lui un'altra dimensione, perché poi si va presto a dire vabbè, Conte potrebbe eventualmente, lasciando la Juventus, dove potrebbe andare, grande club straniero eccetera eccetera, però di fatto lui in Europa non ha vinto nulla e anzi ha raccattato qualche figura non bellissima. 800 24 0024, Pierluigi Pardo, Paolo Condò, state lì, abbiamo già un ascoltatore in linea, c'è Nico da Napoli, sì, da Napoletano. La Juve tra le prime otto d'Europa se avesse un allenatore diverso, lo scrive Nico, insomma. Tutti convocati. Dal profondo sud italiano dove siamo stati fino a ieri, Pardo c'è ancora, Pino, provincia di Catanzaro, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senti, io volevo parlare di Buffon. Buffon? Che ultimamente da un po' di tempo che non lo vedo quello del 2006, dei mondiali. Sì. Cioè, lui che dava tanta sicurezza alle difese, no? Lo vedo un pochettino insicuro nelle uscite. Ma guarda l'ultimo gol che ha preso. Di recente mi sembra che insomma sono 4 anni che grosso modo si fanno questi discorsi su Buffon, sale e scende, non è più quello di prima eccetera, posto che gli anni passano per tutti. Ma io non lo discuto. In questo momento non mi sembra nemmeno nella situazione peggiore, insomma, nello stato di forma peggiore, cioè ho visto delle versioni peggiori di Buffon. E quindi? Vorremmo dire dovrebbe uscire un pochettino in più, farsi trovare più pronto. Non so, chiediamolo a un portiere, Pardo. Aspetta, che qui non voglio far prendere multa a Di Gennaro, perché qua siamo a Piazza Plebiscito. Io torniamo indietro, Piazza Trieste e Trento, grande sì. Amicizia, Sky Media, siete in viaggio insieme verso Napoli. Quindi, per quanto riguarda Buffon, ci sono delle volte delle sensazioni negative che in qualche caso sono anche giustificate, perché insomma non è che Buffon sia in assoluto esente da errori, però mi sembra un portiere che fino a questo momento tutte le volte che è stato messo in difficoltà poi ha trovato la forza di smentire tutti e di ripartire alla grande, per cui io vedo lui in questo momento ancora. Certamente lo fa anche Prandelli, ma com'è normale che sia, è chiaro che siamo agli ultimi giri di pista, però per questione anagrafica ovviamente, però rimane sempre una spanna sopra tutti gli altri. Senti Paolo Condò, io invece volevo tornare a questo parallelo che mi intriga abbastanza tra lo United del Milan. Prima si diceva risultati pessimi e simili, e Pardo ha ricordato lo 0-3 con il Liverpool in campionato. Adesso vabbè, Moyes si allarga, perché stavo leggendo alcune dichiarazioni sui giornali inglesi, we can win the Champions League, mi sembra pura follia, però sono delle differenze. Il Manchester ha soldi, ha tutto sommato qualche giocatore eventualmente anche monetizzabile, ha molto più futuro rispetto al Milan. Beh, allora c'ha tre giocatori sostanzialmente, quattro giocatori sostanzialmente differenti. Sì, il portiere, che è un portiere che si sta avviando, De Gea, a diventare uno dei primi tre del mondo. È stato un grande investimento, l'hanno pagato tanto, pagato tanto, però sta cominciando. Ieri sera la qualificazione, secondo me, è innanzitutto sua, perché bastava prendere un gol ed eri messo malissimo, e lui ha salvato proprio la squadra nei momenti difficili. Poi Van Persie, naturalmente, è uno dei cinque migliori centravanti del mondo, e era dove noi speravamo arrivasse Balotelli, almeno per il momento, però non lo sfiora nemmeno Van Persie. Stagione un po' così anche per Van Persie, però. Come valore, e poi ci sono Giggs, che non soltanto la memoria storica, ma è anche, l'abbiamo visto ieri, continua a essere, sia pure da fermo o quasi, un regista straordinario. Sì. Ecco, e penso che Giggs sia l'uomo che negli spogliatoi, nei momenti più difficili, anzi non penso, lo so, è così. Sì. Nei momenti più difficili Giggs ricorda a tutti che cosa voglia dire quella maglia e quale tipo di sudore vada lasciato dentro quella maglia, anche a prescindere dal risultato al quale poi arrivi al 90esimo, che poteva essere, io ho considerato un errore. Uno dei vari errori del Milan dell'ultimo mercato è stato il fatto di aver lasciato andare Ambrosini, che certamente non è più il giocatore di una volta, ma Ambrosini era l'ultimo moicano di un gruppo, e probabilmente i quattro anni trascorsi lontano hanno impedito a Kakà di ereditare in ma sì, ma anche come carattere Kakà non mi sembra la stessa cosa, e anche come carattere, esatto. E poi c'è Wayne Rooney è un fuoriclasse. Certo. È un fuoriclasse anche per come si sa, e quello il Milan proprio non ce l'ha, un giocatore come Wayne Rooney. Cioè uno capace di, lo trovi terzino e due minuti dopo lo trovi al tiro e poi all'assist. Certo. È un fuoriclasse totale, Rooney, anche ieri ha giocato una partita secondo me stupenda, ed è quello che ti cuce e riparte, insomma ti fa tutto quanto e lì proprio non esiste un possibile. Quindi al Milan mancano quantomeno giocatori di questo tipo, la memoria storica rappresentata nello United, dicevi giusto, da Giggs, e un fuoriclasse assoluto. Queste cose quantomeno il Milan non le ha, non ce le ha, e non c'ha neanche, secondo me, in questo momento la stessa chiarezza e le stesse spalle larghe, nel senso che quello che secondo me è impressionante la diversità fra United e Milan, è il diverso tipo di reazione di fronte alla crisi, nel senso che quest'anno non è che Moyes stia facendo bene, sta facendo malissimo. Ma anche lui rischiava, si diceva. Sì, rischiava, però Ferguson, per dirti, l'ha sempre difeso, con tutto che, diciamo, è vero, si l'ha scelto lui, ma è anche vero che tutto sommato, in una forma di narcisismo, poteva anche scaricarlo, no? Cioè, per uno che per 30 anni ha vinto tutto allo United e guarda caso lascia la squadra e comincia il disastro, no? Poteva anche avere la voglia di dire vabbè, come me non ce n'è un altro, no? Mentre intanto qui c'è un cartello stradale che è stato ridipinto a penna con Napoli 3 Porto 0, bellissimo, prendiamolo come un augurio, speriamo ovviamente. E secondo me, insomma, comunque la gestione della crisi, la gestione delle difficoltà a Manchester è molto più lucida, è molto più serena, e questo non è un discorso che riguarda solo il Milan, è un discorso proprio di cultura del calcio italiano rispetto all'estero. Erano altri tempi sicuramente, ma ricordiamo che Ferguson ci ha messo 2 anni e mezzo prima di vincere il primo trofeo lo United. In Italia uno che allena una squadra come lo United, facciamo un nome a caso, Seedorf. Facciamo un nome a caso, Seedorf. Oggi, allora, oggi il titolo è 7 giorni a Seedorf, no? Quindi facciamo un nome a caso, che è questo. È evidente che la differenza sta qui, anche perché in Italia credo che Moyes all'Inter, al Milan, alla stessa Juventus, forse sarebbe già andato da un'altra parte, sarebbe già andato via. Alessandro? Sì. Che dice? Sì, grazie per la convocazione. No, niente, volevo solo dire una cosa, ma queste squadre italiane che sono così svalutate, che vanno così male in ranking UEFA, ma se ci ricordiamo male, fino a pochi anni fa, cioè fino a 4 anni fa, comunque eravamo campioni d'Europa e campioni del mondo con l'Inter. Fino al 2006 eravamo campioni d'Italia, campioni del mondo. cioè bene o male anche il Milan ha fatto un sacco di finali di Champions. Io sono giovanissimo, 26 anni, però mi sembra che questo calcio italiano così mistrattato, cioè mi sembrano le solite... Io credo in parte sia una questione di corsi e ricorsi, cioè che cioè, sia anche una questione di circostanze. È anche vero che siamo stati abituati per una decina d'anni o a vincere o ad andare in finale o comunque a giocarci alla fine in fondo, ad essere competitivi. Adesso diventa tutto, se ci guardiamo indietro, i circoletti rossi diventano molto più radi. Paolo? Io credo che noi abbiamo nel nostro recente passato due straordinari risultati, che sono uno, il massimo che ci possa essere, il titolo mondiale del 2006. Ah beh, sì, nazionale, e l'altro certo. È la medaglia d'argento, il secondo posto agli europei del 2012, che ci dicono che comunque c'è stato un cambio. Ecco, io trovo che in anni di pochi soldi, perché sostanzialmente poi alla fine si torna su quel concetto, in anni di pochi soldi e quindi di stranieri fortissimi inavvicinabili, in generale avremmo dovuto puntare di più sul calcio italiano, sui giocatori italiani, come hanno fatto per esempio i tedeschi, nel momento i tedeschi che dal titolo europeo del 96 non hanno poi più vinto niente. A livello di nazionale, che insomma loro erano abituati a farlo, a un certo punto hanno investito moltissimo sui talenti loro, e guarda adesso che bella nazionale, che bei club hanno. Sì, sono investimenti però a medio termine. C'è anche una cosa che secondo me il calcio sta cambiando, piaccia o no, quindi a destra siamo arrivati, perfetto, un grande momento. E dove sei? Geolocalizzati. Dove? Mi geolocalizzo, sono vicino a via Caracciolo, a Napoli. Perfetto. È tutto bene. La grandissima. La gran signora, sì. No, secondo me c'è questa cosa che il calcio sta cambiando e sta diventando sempre di più business. E quindi da questo punto di vista, secondo me, noi siamo poco attraenti, noi come sistema Italia, cioè il fatto che gli sceicchi vadano a prendere il Manchester City e invece fatichino a investire soldi sul mercato italiano per la mancanza di stadi di proprietà, per la mancanza di infrastrutture di un certo tipo, per la difficoltà evidentemente a fare soldi col merchandising, per tanti motivi, insomma questo è un problema strutturale del nostro calcio. Perché gli sceicchi sono andati a Parigi e a Manchester e non sono venuti sono a Roma e Milano, una buona cosa. Ma perché il contesto italiano in generale, e non riguarda solo il calcio, è un affare ben più complicato. Prima di salutare Paolo Condò, mentre Pardo parcheggia dalle parti di via Caracciolo, e sempre sulla Champions League, è facile pronosticare una finale Bayern-Real Madrid, poi vediamo i sorteggi, ovviamente è la finale più probabile, credo sarei d'accordo. Atletico, Chelsea, Manchester United e Borussia hanno fatto il loro, una di queste può essere l'outsider. Barcellona e Paris Saint-Germain sono invece le vere variabili, possibili alternative a Bayern-Real. Tra l'altro leggevo che Ibrahimovic è andato a trattare con gli sceicchi: ragazzi, se vinciamo ci scucite €1 milioni a cranio per la vittoria della Champions, mica male. Sì, il ranking, la classifica è quella, però naturalmente un sorteggio aperto ti può proporre qualunque cosa. Real Madrid ai quarti di finale, quindi sì, le due squadre che anch'io ritengo più forti sono Real Madrid e Bayern, ma è tutt'altro che scontato che la finale sarà quella. Ci sono, dovessi giocarti un outsider, Paolo, quale sarebbe? Ma guarda, un outsider, il Paris Saint-Germain non ha ancora dei limiti conosciuti, perché è una squadra che dovunque giochi, dovunque vada, fa 3-4 gol a tutti quanti, e non ha ancora affrontato neanche in Champions le corazzate. Sì. Però per il momento, io l'anno scorso ho visto il suo quarto di finale contro il Barcellona, e fu un quarto di finale, andò 2-2 all'andata, 1-1 al ritorno, e quindi per un gol in più segnato in trasferta passò il Barcellona. Però fu estremamente equilibrata il duello, e non mi stupirei se il Paris Saint-Germain quest'anno, magari complice qualche buon sorteggio, arrivasse fino in finale. Grazie Paolo, ci sentiamo ciao presto. Ciao a tutti, sempre ciao un piacere. Ciao Carlo. Ciao Paolino. Paolo Condò, dunque, lo salutiamo. Pierluigi Pardo, parcheggio in via Caracciolo. Voi state lì, Andrea da Ravenna, Pietro da Parma, 800 24 00 24, borsa, poi torniamo. Convocati. questo è facile, ha messo un pezzo di carne abbastanza alto sul mattone ardente con la legna ad ardere e si cuoce a bistecca la Fiorentina al sangue, rigorosamente al sangue. La Samoa va a puntare, è caldissimo il danese, la palla dentro con la sponda che diventa buona per Marchigio, dentro per Giovinco, pallone che rimane lì, Arturo Vidal porta subito la Juventus in vantaggio, dopo 3 minuti è già 1-0 per la Juve. Ma io penso che soffriamo gli ultimi 20 minuti con la Fiorentina, no, non lo so se c'è una spiegazione, loro magari soffrono i primi 70 e noi soffriamo gli ultimi 20. Ilicic cerca Gomez alle spalle di Ogbonna, la palla è per lui, il controllo di Gomez, è tornato Mario Gomez, 1-1 a 12 dalla fine. Aspetto che metta in campo le proprie caratteristiche, che giochi con gioia, perché è una partita da vivere in ogni sua sfaccettatura, quindi di essere se stessa e di capire anche l'importanza della partita e metterci quel vigore che è necessario in una partita di questo tipo. Io non so se Pierluigi Parda abbia trovato un parcheggio creativo in via Caracciolo, però vi leggo questo. L'hai trovato? Sì, è tutto a posto. Strisce blu, grande parcheggio, sì, tutto tranquillo. Grande qualità. Senti, rispetto delle regole, sì. Io ho un messaggio siglato Beppe BG, che non so se stia per Beppe da Bergamo o Beppe Bergomi, che ci ascolta tutti i giorni. Sì. Comunque, Beppe scrive: da allenatore dico che i 100 punti sono leggenda, l'Europa League è storia di un anno. Io non sono d'accordo con questo, lo chiedo anche agli ascoltatori. Secondo me invece campionato e tornare a vincere l'Europa in questo particolare momento storico per la Juventus e per Conte, doppietta, double se preferite all'inglese, sarebbe pure, non dico leggenda, ma certamente storia. Sì, ma ragazzi, di che stiamo parlando? Cioè, i 100 punti sono una roba così... per statistica, per gli appassionati, sì, per gli appassionati di atletica leggera, di tutto rispetto, dico. Beh, nessuno li ha mai fatti, però, Piero. Sì, ho capito, e quindi... No, quindi niente, mi limito a, cioè, voglio dire, a considerare. Questa grandissima, non c'è bisogno che la Juve faccia 100 punti per celebrare un eventuale terzo scudetto, qualcosa di più la Chiesa. Questo ne fa 96, è una cosa magnifica, grandiosa, che ha piegato le resistenze degli altri. Di che stiamo parlando? Cioè, non... proprio non toglie nulla, veramente non toglie nulla, e mentre la coppa è una coppa, la coppa UEFA è una coppa, ragazzi. Sì. Non è la Champions, vabbè, voglio dire, non è che uno può dice io volevo stare con Claudia Schiffer, non ci sono riuscito e quindi niente, non mi occupo più di donne perché io volevo la Schiffer, cioè uno poi nella vita trova tra cos'altro, the second chance, yes, ma sì, ma secondo me insomma non lo so, mi sembra proprio un ragionamento talmente logico, cioè faccio fatica a pensare. No, ma anch'io ti dico, ma no, ma poi per il particolare momento storico, cioè non dimentichiamo che la Juventus è tornata certamente a vincere in Italia, anzi a stravincere, a rivincere, a fare il triplete, perché quest'anno non, ovviamente non c'è verso, però una dimensione europea dal tempo che voi conoscete non ce l'ha più, Andrea. Ma poi sì. Sì, scusa, in 20 secondi, se ci fosse un testa a testa in campionato, ma certo, ma capito, certamente, no? Pier, ma certamente, ma non c'è, certo. non c'è né testa a testa, c'è, né testa con, per il Napoli anche la cosa di Benitez, voglio dire, non è che arrivare terzi ti viene, non fai la Champions, arrivi terzi dopo che hai vinto l'Europa League, c'hai un ranking pazzesco, ma stai scherzando, certo, allora, scatole sicuramente preliminare un po' di patente, ma voglio dire, anche lì secondo me non c'è partita fra vincere l'Europa League e arrivare secondo, ma assolutamente, chi se ne frega arrivare secondo, ma assolutamente, cioè, ma... non lo so, boh. No, ma poi voglio dire, è una coppa che resta, cioè è un trofeo, un alloro, ma andiamo a fare i conti di quante ne ha vinte, alla fine la Juventus, alla fine Napoli, alla fine la Fiorentina, cioè di quante volte è successo, mi sembra tutto talmente pazzesco, no Andrea? E poi i soldi, gli incassi, le finali, prego Andrea. Ravenna, buongiorno. Buongiorno a lei, gente, Pardo, bravi e competenti. Sì, volevo tornare anch'io su questo atteggiamento stucchevole e considero anche un po' provinciale. Ma lei è juventino? Conte, sì, sono juventino. Ah. Sono juventino, però non è che ho gli occhi chiusi di fronte, che qui, quindi accetto tutto. Ripeto, lo considero stucchevole anche un po' provinciale, insomma, perché avere questa ossessione dei 100 punti che riguarda, sì, il campionato, sì, italiano, sì, è veramente un atteggiamento provinciale. Sì. E quando dice che il luogo ideale sarebbe la Champions, ma appunto, ma sarebbe, cioè adesso hai la possibilità. Sì, ma siamo sempre ai ragionamenti ipotetici come prima, cioè la Juventus potrebbe valere. Che condivido le considerazioni che facevate voi. Io volevo aggiungere anche quest'altra cosa qua per inquadrare Conte non come allenatore che è un grande, ma come persona. Cioè l'atteggiamento discriminatorio che è nei confronti di Quagliarella, mi stupisco che la stampa non lo metta in evidenza. Se fate il rapporto con i minuti giocati, è quello che ha giocato, è quello sì, che ha segnato. Andrea, è però altrettanto domenica evidente. È sceso in campo, ha procurato la punizione del gol di Pirlo, sì. E nessuno questo l'ha messo in evidenza. Si è messo in posizione di segnare il secondo gol, ma né a Samoa né a Pogba gli è andato la palla. Si è messo in evidenza Gasperini quando ha detto che quella punizione non c'era. E vedo stamattina che in panchina ci sono Mattiello e Romagna, sì, e non ha messo Quagliarella. Ma Quagliarella non è nella lista, se non ricordo male, no Pierluigi? Non è nella lista UEFA, quindi in panchina non ci poteva andare. Ma questo è un'ulteriore sottolineatura. Il rapporto con Quagliarella sia un rapporto complicato e... evidente, non è storia di oggi, e sicuramente cioè, Quagliarella per me merita molto di più di quello che sta avendo, che è pochissimo. Vi ricordo che parlavamo dell'ultimo giro di mercato, che io dissi che mi sembrava incredibile Quagliarella alla fine rimanesse alla Juve, perché un giocatore come lui, con la sua qualità nell'anno del mondiale, ancora con qualche speranza residua che ci potrà essere di andare al mondiale, doveva mettersi in evidenza. Non è stato, è un vero e proprio fallimento della logica questo. Pardo, sento un rumore di piatti. Sì, ma io sono anche un po' aggravato, non voglio entrare in dettagli, ma non so proprio al meglio, ecco, al 100%. Sento però quindi, comunque un rumore di piatti. Lo so, che vogliamo fare? Facciamo, che... Dopo mi dici che mangi però, stanno facendo la focaccia. Aspetta che chiedo all'amico pizzaiolo, ecco, Battista, per Radio 24, facci un pronostico sul Napoli, aspetta, però devi parlare qua. Stasera Napoli porto, come finisce? Io purtroppo Napoli mi piace 2-1 esce Napoli. Supplementare. Non ci sono i supplementari, c'è il gol fuori casa. Benissimo, grazie. Me lo passi? Te lo passo, sì, te lo passo. Cioè, aspetta, ragazzi. Passamelo un attimo, dai. Siamo circondati dalle pizze, vai. Ecco, è Radio 24, non ti parolacce. Che stai preparando? Che mangia Pardo? Che sta preparando? La grande pizza napoletana, Margherita. Anche per Pierluigi, mi raccomando, lo affido a te, perché ce l'ho... Pardo, io ce l'ho bisogno, quindi trattamelo bene. Ma non ti preoccupi, trattiamo al massimo, lo sanno tutti i giocatori che vengono qua a mangiare la pizza grandi al Brugo Antico. Ecco, facciamo Luigi Dallo. Tutto questo, vogliamo dare anche l'indirizzo e il numero di telefono, ricordiamo che è meglio. Vedi, qua è meglio prenotare. Ma quanti minuti la pizza? A minuto. Un minuto. Allora ti lascio andare, Pier. No, la pizza si mangia calda, cioè non è che c'è tante storie. Perché da sport non va bene, sempre calda, la pizza si mangia a tavola. Quindi Battista, viva Napoli, grazie Battista. Però 2-1, però 2-1 andiamo fuori, quindi spiegagli un attimo a Battista. Sembra più preparato, diciamo, sulla pizza che sul gol fuori casa che fare tu. Un pelo di più. Allora, prima della pizza dammi questa considerazione. Maurizio da Mantova, Pietro da Parma, state lì, che arrivo subito. Dopo che ho sentito questa da Pardo, la Juventus con più pressione addosso in questo ottavo a Firenze, con quel risultato, con il clima che ci sarà stasera, con mille cose interessanti. Napoli e Fiorentina a me sembrano onestamente più animali da Coppa, ma anche la storia della Coppa Italia lo dice. Ma proprio la faccia, il DNA, la capacità di accendersi quasi improvvisamente in una notte, il modo di giocare più europeo. La Juve, ma non so se è un fatto europeo, la Juve ha nella sua squadra fortissima, che secondo me ha come ulteriore specializzazione del suo essere fortissima il fatto di non mollare mai, e quindi di essere una squadra da 38 partite in campionato, una squadra con tante soluzioni offensive, una squadra che il gol lo trova contro le squadre che si chiudono, che quindi secondo me subisce meno di altre il problema delle partite che non riesce a sbloccare, e questo la rende la squadra perfetta per il campionato. Sulle coppe innanzitutto le partite sono di meno, quindi gli episodi contano di più. Sicuramente la Juve non è stata fortunata a Istanbul, questo non ci sono dubbi. In generale ci sta questo ragionamento, insomma Benitez nella sua carriera ha un DNA da allenatore di Coppa, per questo mi sorprende quella dichiarazione di ieri nella quale ha fatto capire che secondo me era un bluff, posso dirti? Può essere un bluff, può essere anche alla fine una spinta da parte della società, insomma, però anche lì secondo me anche economicamente è un po' sottovalutata l'Europa League, perché comunque alla fine gli porta in cassa, gli porta soprattutto una valorizzazione di quei giocatori che non apprezzo, insomma, sì. Andare avanti, far vedere a tutta Europa i giocatori che hai significa poterli vendere meglio. Ma non la vinciamo mai, cioè non la vinciamo da secoli, dai, onestamente. Pur di vincere la Coppa del calcio italiano, so, io andrei a rubarla dove si trova, ma la vorrei alzare a tutti i costi con tutte le mie forze. Quindi sono tutti, secondo me sono tutte chiacchiere che stanno a zero, non so se bluff oppure no. O discorso della volpe dell'uva. Senti, ti lascio andare a mangiare. Intanto, se la Fiorentina passa, ci offrono un panino ai Lampredotto. Quindi, quindi insomma, un certo qualità. Tifo o farò. Noi dovremmo confrontarci con tutte le italiane, no? Così, ma sì. O si rimedia la bagna cauda, o si rimedia la pizza, o si rimedia il panino all'ampredotto, insomma, finisce sempre bene. Ciao Pier. Ciao, baci. Traffico poi Maurizio e Pietro. Il principale è chi è questo? Puntare al secondo posto e sì, Benitez. Sì, possiamo farlo, ma chiaramente adesso la partita più importante è questa, l'Europa League. Convocati. Maurizio scrive: facevamo la finale dei campioni, Coppa Campioni, facciamo gli ottavi di UEFA. Vabbè, Maurizio, allora che dobbiamo fare? Piangere tutta la notte? No, cerchiamo di andare a fare la finale di Europa League, e con grande orgoglio, con grande voglia, io direi. No, Pietro, mi sbaglio? Sì, tutta la vita. Allora. Bisogna andarla a fare quella finale lì. Ma io volevo fare una domanda, anzi un parallelo tra il Milan e il Manchester United di ieri sera. Ma lei ci crede che Seedorf, se non vince, o quantomeno non fa punti nelle partite con Lazio e Fiorentina, che tra l'altro sono una tre giorni dall'altra, cioè l'infrasettimanale, o cacciano? Lei ci crede? No, sarebbe una pazzia pura. Cioè, che senso ha allora prenderlo, tenerlo lì un mese? Ha fatto non pochi disastri. Cioè, se leggiamo, squadra spaccata, giocatori, la maggior parte dei giocatori che non lo sopportano, un sacco di capi d'accusa che sono scritti oggi su tutti i giornali. Ha fatto più danni della grandine, a quanto pare. Perfino infatti, Berlusconi, infatti, che lo ha voluto, lo ha difeso, è suo amico, gli vuole bene, eccetera, eccetera, eccetera. Persino Berlusconi, almeno a leggere ovunque, a sentire spifferi e voci, sembra, diciamo così, parecchio preoccupato, o quantomeno non più tanto convinto. Infatti, secondo me, licenziare Allegri è stato uno sbaglio. Si finiva la stagione con lui e poi buonasera a tutti, si ricominciava da Seedorf con i suoi giocatori, col suo staff, e poi vedevamo il prossimo anno che Milan era. Ma la mia considerazione era questa qua: quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Sì, ho visto ieri Valencia, il giocatore del Manchester, con un occhio solo trascinare il Manchester verso la vittoria. Non ho visto un mezzo giocatore del Milan avere la stessa grinta. Sì. Ma com'è possibile così? Come è possibile? E Valencia in questa stagione disgraziata dello United è stato spesso uno dei peggiori, questo lo ricordiamo. Com'è possibile? Io non sono però d'accordo su quanto diceva lei prima, e cioè in teoria questo anticipo di futuro, questo anticipare futuro chiamando subito Seedorf, che era già contratti firmati, anche se non ufficialmente, ma si sa che è così. Anticipare futuro voleva dire risparmiare un po' di tempo, cioè permettere al nuovo allenatore dell'anno prossimo di cominciare a lavorare su questo gruppo. Certo è che mi sembra che Seedorf non stia convincendo davvero nessuno. Maurizio, buongiorno. Salve a tutti. Dica. Ma io avevo sentito prima che parlavate, vabbè, io tifo Juve, però diciamo che sono un tifoso moderato, mettiamola così. Allora, mi interessa il suo punto di vista: 100 punti o Europa League? Dovesse scegliere. Ah, Europa League, non se ne parla. Eppure qualcuno ne parla, eh? Tanto che è stato messo un premio su 100 punti, ma non risulta sia lo stesso sull'Europa League. Sì, ma vincere lo scudetto con 99 punti e vincerlo con 101 cosa cambia? Lo scudetto lo vinci lo stesso. Ma non sono d'accordo. Se la Juve, o i dirigenti della Juve, perché come squadra presi 1-1 come squadra è veramente forte, però lo devi dimostrare in campo. In Italia l'ha già dimostrato. Se vuoi avere un'affermazione internazionale che confermi questa forza. Sicuro, ma è esattamente quello che penso io. E questo discorso vale, Maurizio, questo discorso ho aggiunto e torno ad aggiungere, vale non solo per il club, ma vale anche per i singoli interpreti, a partire da Conte, perché ha una grande dimensione ormai italiana, però Antonio Conte non ha una dimensione europea come allenatore, tanto che non lo so se verrebbe preso in considerazione il suo nome per un grande club europeo. In Europa non ha mai vinto niente, no? A parte il discorso di arrivare in finale e avere la possibilità di vincerla, c'è anche un discorso che se le squadre italiane vanno avanti, se Benedetto punteggio sì, a livello il ranking europeo, UEFA, certo, andrebbe, sì, lo porteremo un po' su. E no, no, ma certo, ma stiamo dicendo, sarebbe a vantaggio di tutti. Ma stiamo dicendo un po' tutti la stessa cosa. Mi piacerebbe capire se c'è qualche voce all'interno di dei simpatizzanti o tifosi o ultra o insomma degli juventini tout court, c'è qualche pensiero discordante rispetto a questo, che mi sembra quello più normale, più di buon senso, più logico da un punto di vista strettamente sportivo. Poi possono esserci mille altre sfaccettature che non capisco. Mi interesserebbe capire quali sono. Giuseppe Messina, sì. Buongiorno. Sì, sì. Lei cercava il tifoso tout court che andava in senso contrario. Eccolo, sì, qua. Eccolo là. Allora mi dica, lei vuole i 100 punti, gliene frega niente dell'Europa League? No, me ne frega niente dei 100 punti, va bene anche 80. Quel che no, e allora stiamo dicendo la stessa cosa l'altra volta. No, quel che conta è il campionato. E vorrei dissentire con lei sul fatto che prima ha detto queste squadre quante volte hanno alzato questa coppa qua e là. Le vorrei ricordare che la Juve è l'unica squadra al mondo che ha vinto tutte le coppe. Sì, va bene, magari, ma quante, da quanto tempo manca? Ma non conta nulla. Come se non il conta? Se la Champions League fosse a girone unico come il campionato italiano, ma certamente la Juventus ne vincerebbe qualcuno. Certamente è troppo legato di certezze, alla fortuna. No, Giuseppe, ma sì, ma questo vale per tutti. E quindi cosa vogliamo dire? Che la Juventus è sfigata, è maledetta dalle stelle in ambito europeo, e quindi non è così. Cioè, poi alla fine conta il passato, conta il palmarès, eccetera. Ma il calcio italiano da quanto tempo? Non negli ultimi anni. Quante volte è riuscito ad alzare delle coppe? Non sto parlando solo della Juventus, anche la stessa Juventus da quando è tornata, lo Juventus bis, chiamiamolo così, la Juventus della rinascita, Juventus di Conte, quella dei tre, perché sono ormai tre scudetti consecutivi, non ha una dimensione europea. Dunque io credo che poi si trova nella condizione, lo scudetto è già vinto, possiamo fare tutte la così le lucubrazioni che vogliamo insieme a Conte, sull'onda di Conte, no, mi mancano 51%, mi mancano tot punti, non è ancora sicuro, eccetera. Lo scudetto è vinto. Si trova nella condizione ideale per inseguire un traguardo europeo che né Conte né la Juventus del nuovo corso hanno raggiunto, hanno centrato. È chiaro, non è la Champions League, lo sappiamo tutti, però sarebbe comunque l'avere una dimensione europea che può essere anche propedeutica ad una crescita futura per Conte, per gli stessi giocatori, eccetera eccetera, perché devono capire qual è la strada che porta lì, strada che ancora non conoscono. Massimo. Salve, buonasera. Dica. Senta, io sono un tifoso di Pardo. Di Pardo? Sì, un sì, ultra sì, di sì. Pardo, sì. Sì, sì, sono un ultra, c'ho anche lo striscione. Che c'è scritto sullo striscione? Allora, intanto lo sto preparando perché sì, volevo dire che la Juventus, da quando poi è andata a letto con la Schiffer, sì, sembra che sia uscito un malconcio per cui ha dovuto rinunciare a ogni rapporto e arrangiarsi. Chi? La Juventus. Ah. Non mi ricordo se era lui che aveva fatto la battuta, sì, della Juventus. Sì, no, dopo, no, lui diceva: se non posso uscire con la Schiffer, non è che rinuncio a uscire con un'altra, magari che non sia proprio la Schiffer. Pardo diceva questo, poi il suo successivo passaggio ho fatto fatica a capirlo, però farò sapere a Pardo dello striscione in preparazione. Faccio una bella foto e la metta su Instagram, Facebook, tutti questi social network, Twitter, che Pardo frequenta continuamente, gli farà piacere, dopo glielo dico. GR, poi torniamo insieme, 800 24 00 24, numero verde, aspettiamo un ospite. Convocati. Il mio nome è Ayrton, faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa. Vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato nel mio, non soltanto nella mia professione, però nella mia vita. E come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia. Vai con molta pesce, basta Fondichirona! Sono stato un po' corto. Assumi a seconda posizione Ayrton Senna! E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Sappiamo che il nostro motore dovrebbe andare bene qui, darci qualcosa di vantaggio. E allora forse riusciamo a equilibrare in questa pista la competitività che abbiamo cercato in Brasile e in Giappone, e era dura. Perciò vuoi dire che sarà un bel weekend, una bella lotta, e la gente nelle tribune avrà grande emozione. Io adesso chiudo gli occhi. Purtroppo poi la gente sulle tribune di Imola le emozioni le ha avute, ma erano le emozioni peggiori, più funeste, più tremende che io riesca a ricordare personalmente, perché sono stato un grandissimo tifoso di quest'uomo. Leo Turrini, ci eravamo dati un appuntamento pubblico oggi, ora e qui. Siamo uomini di parola. Come si intitola questo libro? Siamo qui, il libro si intitola Senna in viaggio con Ayrton, ed è la storia di una carriera, non è una biografia classica, è il racconto di un'amicizia, perché io ho avuto fortuna, grazie a un fotografo di Bologna che aveva conosciuto Senna quando era un ragazzino alle prime armi nei kart. Il fotografo si chiama Angelo Orsi. Ebbi modo di conoscere Senna e nacque un rapporto, devo dire, molto, molto simpatico. Lui mi aveva in particolare preso in simpatia, perché io ero proprio il garzone di bottega, ma avevamo la stessa età, forse era anche questo elemento. Io del 18 marzo del 60, lui del 21 marzo del 60. Insomma, ho vissuto da vicino tutta la fase più intensa della sua avventura, dalla pole position a Imola nell'85, e fu la prima volta che partì davanti a tutti nel Gran Premio di San Marino, all'1 maggio del 94, e poi ero sull'aereo il 3 maggio 94 con la salma di fianco, perché il comandante del volo Varig da Parigi a San Paolo, eri l'unico giornalista italiano se non ricordo male, esatto, disse: per legge le salme debbono viaggiare nella stiva, ma lui no. E fu una veglia funebre a 10.000 metri di quota, un'esperienza indelebile, un'emozione scioccante, l'ultima emozione che Ayrton ci ha voluto regalare. E volevo anche dirti una cosa, che mi hai commosso con questo attacco, come si dice in gergo, con Lucio Dalla, la voce di Ayrton. Io lo so che tu sei più bravo, ma non perdi occasione per dimostrarlo. Grazie. Non è questione bravi loro, bravi Alessandro Jacopini e Roberto Scaltriti in regia, che su commissione hanno confezionato questa cosa molto bella. Ma poi risentire cioè, tu racconti l'ultimo viaggio. Adesso stiamo diventando un po' tristi, perché stiamo parlando comunque, non c'è più, ma di uno dei personaggi più leggendari della storia dello sport. Quindi ricordiamolo e celebriamolo come si deve. È stato il pilota più forte nella storia della Formula 1, secondo me. Allora, i paragoni tra epoche sono sempre fesserie colossali. Il cappello sulla panchina del Milan, giustamente tu dici, non si possono paragonare. Roba da bar, quindi Pelé, Maradona, Van Basten e chi c'era, Messi, tutte Senna, io mi sento di dirla, è stato il più carismatico, certamente, ed è stato l'ultimo dei moicani, perché con lui è davvero finita un'epoca. Io ho il massimo rispetto per chi guida oggi in Formula 1, da Alonso a Vettel a Hamilton, ma non è colpa loro, sono stati robotizzati. I piloti dell'era di Senna, parlo anche dei suoi grandi avversari, Prost, con il quale ebbe una rivalità che sfiorava l'odio, Piquet padre, Mansell, lo stesso Schumacher, che era giovanissimo perché fu l'ultimo avversario di Senna in pista, avevano un istinto e anche un'abitudine in virtù delle quali non avrebbero accettato la trasformazione della Formula 1 in quella che è diventata oggi. Oggi questi piloti, magari bravissimi, ma ripeto, sono dei robot. Sì. Senna non era un robot, noi ce lo ricordiamo quando pianse in Brasile la prima volta che riuscì a vincere la corsa davanti al suo pubblico. Anche se dietro quegli occhi era difficile vedere qualcosa, no? questa maschera, lui stesso lui un po' triste, dico, che secondo me, cioè, lui era non si lasciava vedere, guardare dentro. Un uomo con una sensibilità molto profonda e credo anche, adesso non voglio esagerare perché a me non piace trasformare nessuno in un santino, sì, eh. Sì. Però lui aveva la sensibilità da brasiliano nei confronti delle grandi giustizie del nostro tempo. Cioè tutto quello che faceva in segreto per aiutare l'infante abbandonato, che si è scoperto solo dopo la sua morte, tra l'altro, no? Nasceva da questa consapevolezza. Io ne ho parlato con lui, lui mi diceva: guarda, io mi rendo conto che sono un privilegiato. Oggi diremmo Senna era uno della casta, veniva da una famiglia ricchissima, certo, in Brasile, no? Certo. Non aveva nessun tipo di problema. Però questa cosa gli pesava e cercava nel limite del possibile di impegnarsi a sostegno di chi non aveva niente. Tant'è vero, guarda Carlo, io sono stato al funerale, 5 milioni di persone per strada, una cosa che avevo visto in TV solo i funerali di Gandhi o di Nasser, capisci? Perché non era soltanto un pilota. Dopodiché ti dico, parlandone da vivo, non era un santo. Era un uomo che per vincere un Gran Premio avrebbe asfaltato sua mamma, perché per lui la vittoria era tutto. Quando si è trovato in condizione di doversi sportivamente, mettiamola così, anche vendicare nei confronti di Prost, lo ha fatto con un cinismo, cieco, devo dire, e lo ha rivendicato, non si è nascosto dietro il dito. Lui era molto religioso, ma il suo dio era il dio della legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Quindi io nel libro racconto quegli anni memorabili, meravigliosi, senza omettere nulla. C'è anche il lato oscuro della forza di Ayrton, che abbiamo appena citato, perché ripeto, in talune circostanze lui era uno col pelo sullo stomaco, era uno col pelo sullo stomaco, era uno vero, ecco, se mi passi la banalità, era uno sì, ma vero. Poi narra la leggenda anche che preferisse la compagnia dei meccanici nelle notti che precedevano i Gran Premi e non quella delle oggi diremmo veline. Ai tempi di James Hunt si diceva tu sei molto preparato sulla materia, Sai, adesso hanno cambiato il nome alle cose, non potendo cambiare le cose, no? C'è tutta una teoria filosofica, la mutazione del linguaggio che maschera il fatto che però la sostanza rimanga molto spesso tristemente identica, capito? Un po' così. Dai, io ti vengo un paio di messaggi. Ogni volta che sento la canzone mi vengono i brividi. Un pensiero anche a Ratzenberger, che non lo dimentichiamo, scrive Marco giustamente, che ha ragione. Che guarda, morì posso il giorno dirti una prima, cosa? Su quello stesso circuito, in quella stessa occasione. Uno dei ricordi più belli, Carlo. L'anno dopo i genitori di Ratzenberger mi scrissero una lettera, perché avevo parlato tanto del loro figlio, perché io ho visto anche in quella tragedia abbinata una dolorosissima lezione di vita. Quando andai all'obitorio di Bologna c'erano nella stessa stanza il milite ignoto, che era lo sconosciuto Ratzenberger, e il campionissimo, che era Senna. E i genitori mi scrissero dall'Austria e mi scrissero anzi: guardi, noi non abbiamo nessun rimpianto o nessuna acrimonia nei confronti dell'automobilismo, perché il nostro ragazzo è morto facendo quello che sognava fare. E a me venne in mente Totò, la famosa poesia a livella, no? Sì. Ambientata in un cimitero, che davvero l'evento estremo ci rende tutti uguali, no? Che uno sia il fuoriclasse assoluto e l'altro no, ma questa è la definizione più meravigliosa che si possa dare: facendo quello che sognava di fare, cioè, amen, non c'è altro da aggiungere. Sì, C'è anche Antonio dal Bano Laziale che scrive: stavo guidando e mi avete fatto accostare per l'emozione, il primo maggio 94 ero a Imola, ho ancora i brividi. Sì, guarda, devo dirti, ripeto, dopo è chiaro che quando succede l'irreparabile, no, c'è la tendenza, l'abbiamo ricordato anche poco fa, a mitizzare il personaggio. Però quel giorno lì e poi anche quelli immediatamente successivi avemmo tutti la sensazione che qualcosa fosse finito, almeno io abito. Esatto, che si fosse spezzato qualcosa per sempre. Sì, sono passati 20 anni, per fortuna la Formula 1 non è più incappata in tragedie, però guarda, io non sono mai riuscito a rimuovere io confesso perché sei un grande amico, che non sono mai più riuscito a fare il tifo per qualcuno in Formula 1, e questo te lo confesso, penso che non ci sia niente di male. No, ma io guarda, ho voluto scrivere questo libro al di là della coincidenza, l'anniversario e così via, perché ci tenevo, perché era, ripeto, la storia di un'amicizia tra due coetanei, ovviamente. Sì, sì. Uno famosissimo e uno sfigato col computer, un tempo si era detto con la penna, che ero io, no? E però volevo farlo, volevo forse anche l'ultima cosa, diciamo così, da testimoniare. E hai fatto, perché bene. Ci tenevo. Guarda, tenevo. Adesso quando lo leggo poi ti faccio la recensione in diretta, preparati. Io sono sicuro che sarai severissimo, però salva almeno la prefazione che è di Dino Zoff e la postazione di Felipe Massa. Ecco, Massa, lasciamelo dire, merita la mia gratitudine eterna, perché tu lo sai, anche quando mi chiami a tutti i convocati, io lo tratto sempre a pesci in faccia. Sì. E ha avuto il cuore di dirmi: sì, te la faccio volentieri la postazione per il libro, perché io ero un ragazzo quando Ayrton è morto, la mia fonte di ispirazione. Ho guidato io la macchina che sarebbe stata sua, perché se sì, doveva sì, chiudere sì. la carriera in Ferrari, e adesso sono in Williams, l'ultimo monoposto di Ayrton. È un testo. Beh, chapeau Filippino, chapeau. Sì, Leo, ci sentiamo prestissimo, Guarda, quando vuoi, ti perché sai che io ti considero forte. Il più bravo di tutti. Grazie, grazie a Turrini, grazie a Turrini. Io saluto. Alessandro Iacopini in regia, Roberto Scaltritti in redazione, Roberto Scaltritti in regia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 2, ciao.